Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera e buon anno ai nostri ascoltatori. Oggi parliamo di un protagonista del mondo globale, parliamo della Cina e lo parliamo con Giancarlo Elia Valori. Buonasera Presidente Valori. Buonasera a voi tutti, un felice anno nuovo 2011, soprattutto un anno di nuove realizzazioni. Ormai nell'orizzonte avvengono soprattutto i nuovi protagonisti, ma noi del, europei del vecchio continente dobbiamo essere i veri protagonisti. Grazie Presidente Valori, un nome che non ha bisogno di presentazioni, ma è uno dei più importanti manager italiani, docente universitario, osservatore della situazione politica ed economica. Grazie. È attualmente a capo della centrale finanziaria della Regione Lazio e anche presidente onorario di colossi cinesi come Huawei Italia. Insegna in università a New York, a Gerusalemme, a Pechino e sicuramente è uno dei maggiori osservatori e analisti della situazione attuale e ha scritto questo libro, La via della Cina, passato, presente e futuro di un gigante della storia, edito da Rizzoli. Ecco, qual è il motivo di fondo di questo libro, Presidente Valori? Il motivo di fondo di questo libro è che naturalmente, essendo io un appassionato conoscitore di questo mondo, in questi 30 anni ho visto queste continue trasformazioni della Cina, delle quattro modernizzazioni e tutto via discorrendo. E credo che fosse opportuno soprattutto di vedere questi nuovi scenari internazionali, cioè soprattutto Cina, Mediterraneo, Stati Uniti. Ecco, e quindi questo è, credo che è uno scenario, una triangolazione che certamente questa si svilupperà nel futuro. Perché vedete, la Cina sosterrà certamente quello che è lo status quo politico locale, che non interessa comprare terreni, chiavi in mano, fornirà il gratuitamente, ma soprattutto la Cina che cosa vuole? Vuole, è un problema, Pechino, gli Stati Uniti accetteranno un quadro strategico cinese nella misura in cui Pechino libera Washington dalle famose tante costrizioni, come la chiamava Jefferson, alleanze strategiche e sostiene la politica finanziaria americana, continuando la stabilizzazione, quello che è lo yuan del renminbi, e finanziare il quantitativo, l'inflazione e l'attuale dirigenza statunitense. Quindi questo libro prende in esame soprattutto il fatto che la Cina si sta avanzando, sta interessandosi un po' del resto del mondo, non c'è solo un problema di andare in Cina da parte dell'Occidente, c'è anche un tener conto di questa strategia cinese. Possiamo dire in un certo senso che la Cina si sta affacciando sul Mediterraneo. Ma non solo nel Mediterraneo, questo vede, era una visione che nel 1991, quando era inimmaginabile certe realizzazioni, con Simon Peres noi allora istituimmo, cosa impensabile, il centro Ben Gurion all'Università di Pechino. Era proprio una strategia importante. Perché? Perché la Cina interessava Israele come il ponte per le tecnologie in Africa, ma soprattutto anche perché la Cina era interessata alle materie prime in Africa. L'Africa è fondamentale. Quindi in questa prospettiva possiamo pensare anche a un impegno della Cina per una stabilità dell'area del Medio Oriente, che sappiamo purtroppo da decenni è una delle aree di maggiore instabilità mondiale. Ma non c'è dubbio, certamente la Cina ha un giudizio molto importante, vede, nel Medio Oriente, soprattutto perché vede il Medio Oriente in relazione anche a quello che è il Golfo Persico, dato che l'integrazione dell'industria petrolifera cinese con quella iraniana è rilevantissima con quello che è il sistema soprattutto del Corno d'Africa. Vedete, Pechino non porta gli occhiali del colonialismo europeo che ha sempre visto il Medio Oriente come così interesse tra lo Stato ebraico, ma la Cina esiste quello che noi chiamiamo il grande Medio Oriente e esiste quello che soprattutto una cosa fondamentale, che io qui ripeto, ripercorre la via della seta. Ecco, io voglio qui tra l'altro per questo ricordare Chuen Lai con una battuta famosa che rispose a Kissinger, che non poteva dare giudizi, richiedeva sulla rivoluzione francese, è troppo presto per dirlo. Ecco, vedete, la dirigenza cinese, a mio vedere, legge l'Africa, Mediterraneo, con la logica millenaria della Via della Seta. Ecco, la Via della Seta un po' al contrario, nel senso che sono i cinesi che adesso vengono in qualche modo a interessarsi della realtà europea, della realtà africana, della realtà mediorientale. Giustamente, vede, è stato a questo riguardo molto importante, giustamente, vede, dottor Fabi, vede, la Cina è sempre più un interlocutore, come dice lei, un influente e indispensabile in quella che è la governance mondiale. Vede, la visita che ha fatto il mese scorso il presidente Hu Jintao in Francia è stata molto importante. Perché? Perché è stata resa importante da una serie di accordi che ha fatto nel problema energetico degli aerei. Non solo, ma anche e soprattutto nella sua visita di Hu Jintao a Lisbona, quando ha detto che Pechino è pronta ad appoggiare gli sforzi del Portogallo per ridurre l'impatto della crisi internazionale. Vedete, cari radioascoltatori, questo messaggio, a mio modo di vedere, va al di là di quello che è un generico impegno di solidarietà. Cioè, voglio ritornare al discorso di prima, meglio accostarlo a quello che è al sostegno diretto che il governo cinese ha dato negli ultimi anni agli Stati Uniti d'America, acquistando senza sosta buoni del tesoro americani, ma ricevendo in cambio il pagamento puntuale delle cedole, ma soprattutto quella che è un'influenza sull'economia e sulla politica americana, che fino a qualche anno fa, caro radioascoltatore, voi potete immaginare, era impensabile. E poi voglio ritornare a un altro problema, il problema portoghese. Io ritengo che la Cina non solo potrebbe acquistare parte del debito sovrano di Lisbona, ma diventando così, vedete, un grande investitore diretto, ma investendo soprattutto su quella che è una lungimirante politica fatta di accordi bilaterali, e può diventare certamente uno dei protagonisti di questa economia europea e mediterranea. Ecco, però che con qualche rischio, presidente Valori, la Cina è finanziariamente molto potente, ha accumulato degli attivi commerciali molto forti, lei ha già ricordato, sta finanziando, ha finanziato il deficit americano, non rischia di condizionare, di volere condizionare anche le politiche europee? Ma sta a noi, vede, sono d'accordo con lei, dottor Fabi, di questa analisi, ma sta a noi europei a dialogare, perché nel frattempo, vede, loro adesso, la Cina sta puntando non soltanto da vecchia data, da quando c'era il mio grande amico ministro, presidente della Repubblica De Marco a Malta come ponte, ma sta puntando Malta, e di da Malta che si gioca un ruolo importante, perché è il ponte verso il Mediterraneo, verso l'Africa, e qui ci sono non soltanto oggi dei protagonisti sono cinesi, ma incominciano a essere, diventare Brasile e l'India. E l'Italia come si sta comportando in questa vicenda? Bene, perché noi in questo momento, come sviluppo del come centrale finanziaria, siamo agli advisor della quarta holding più importante della Cina, che è la HNA, che è la quarta finanziaria, la holding più quarta, dove è interessata a che cosa? Alle infrastrutture a Civitavecchia. Non sono lavoratori, ma sono apporto finanziario, perché lei mi insegna, e i radioascoltatori sanno molto bene, che oggi Civitavecchia è il primo porto d'Italia, e Civitavecchia può essere il vero ponte non solo verso il Mediterraneo, ma soprattutto le autostrade del mare, anche verso il Nord Africa, e che già incominciano a funzionare, e verso la Spagna, come vede. Qui si tratta a un certo momento che noi dobbiamo essere protagonisti, e gli italiani con le loro tecnologie e con il loro ingegno lo possono fare veramente. Quindi non bisogna guardare la Cina solo come la fabbrica del mondo, come veniva definita fino a qualche tempo fa, ma come una potenza che può garantire anche una stabilità e una crescita sul fronte occidentale. Non c'è dubbio, basta vedere, soprattutto i radioascoltatori lo sanno molto bene, tutto il lavoro che i cinesi hanno fatto in alcuni paesi ricchi di materie prime in Africa in questi anni. E questo è un saggio molto importante, perché vedete, una delle cose fondamentali della Cina è proprio il continente nero, il ruolo che il continente nero con le sue materie prime può dare il contributo, e qui è molto importante che già da allora, 1991, voglio ricordare questo famoso incontro con Shimon Peres. Ecco, lei è stato un antesignano, un protagonista di questa. Come è cambiata la Cina in questi 30 anni, in questi ultimi 30 anni, ma in 10 secondi se può? 10 secondi. La Cina soprattutto ha una sola cosa. Come dicono noi, armoniosamente ha applicato le quattro modernizzazioni: sanità, pubblica istruzione, tecnologia e formazione. Eccolo qui, ecco perché noi abbiamo oggi nei posti chiave soprattutto dei cinesi importantissimi. Questo è il ruolo della Cina. E allora, aprire, apertura. Impariamo a conoscere questa grande realtà della Cina. Il libro di Giancarlo Elia Valori, che ringraziamo per essere stato con noi questa sera, a cui rivolgiamo ancora gli auguri di buon anno, si intitola La via della Cina, passato, presente e futuro di un gigante della storia, a prefazione di Antonio Maccanico, edito da Rizzoli. Sono 270 pagine per 19 euro. Grazie e buon anno, Presidente Valori, buon anno a quanti ci hanno ascoltato.